Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. L'indomani ritornai dal nostro primo posto di raccolta di montagna e fermai la macchina allo smistamento in cui i feriti e i malati venivano divisi secondo le loro basse di passaggio e sulle basse venivano assegnati ai vari ospedaletti. Avevo guidato io e rimasi seduto in macchina e lo chauffeur portò dentro le basse. Faceva caldo e il cielo era luminosissimo e azzurro e la strada era bianca e polverosa. Sedevo sull'alto sedile della Fiat e non pensavo a niente. Un reggimento passava per la strada e li guardai passare. Gli uomini erano accaldati e sudati. Qualcuno aveva l'elmetto d'acciaio, ma quasi tutti lo portavano appeso allo zaino. Quasi tutti gli elmetti erano troppo grandi e scendevano quasi sulle orecchie degli uomini che li calzavano. Gli ufficiali avevano tutti l'elmetto, elmetti su misura. Era metà della brigata Basilicata. Li riconobbi dalle mostrine a righe rosse e bianche. C'erano dei ritardatari che seguivano dopo che il reggimento era passato, uomini che non riuscivano a stare al passo del plotone. Erano sudati, coperti di polvere e stanchi. Alcuni avevano l'aria malandata. Un soldato giunse dopo l'ultimo ritardatario. Camminava zoppicando. Si fermò e sedette sul ciglio della strada. Scesi e gli andai incontro. «Cosa succede?» Mi guardò, poi si alzò. «Sto andando avanti. Cos'è che non va?» «La guerra. Che cos'hai alla gamba?» «Non è la gamba, mi è venuta un'ernia. Perché non ti fai trasportare col carriaggio? Perché non vai all'ospedale?» «Non mi lasciano. Il tenente ha detto che mi sono tolto il cinto apposta.» «Fa sentire.» «È uscita fuori.» «Da che parte?» «Qui.» «Tossisci?» dissi. «Ho paura che diventi più grossa. È già due volte stamani.» «Siediti.» dissi. «Appena mi danno le basse di questi feriti ti porterò io e ti lascerò ai tuoi ufficiali medici. Diranno che l'ho fatta apposta.» «Non possono farti nulla», dissi. «Non è una ferita, l'avevi già prima, vero?» «Ma ho perso il cinto. Ti manderanno all'ospedale. Non posso restare qui, tenente.» «No, non ho la tua bassa.» Lo chauffeur uscì dalla porta con le basse per i feriti che erano nella macchina. «Quattro al 105, due al 132», disse. «Erano ospedaletti al di là del fiume.» «Guida tu», dissi. Aiutai il soldato dell'ernia a salire sul sedile accanto a noi. «Parla inglese?» chiese. «Certo.» «Cosa ne dici di questa maledetta guerra?» «Una porcheria.» «Anch'io dico che è una porcheria, Cristo, se è una porcheria.» «Sei stato negli Stati Uniti?» «Certo, a Pittsburgh. Ho capito che lei era americano.» «Non parlo abbastanza bene l'italiano.» «Mi sono accorto benissimo che è americano.» «Un altro americano», disse lo chauffeur in italiano guardando l'uomo dell'ernia. «Senta, tenente, deve proprio condurmi a quel reggimento.» «Sì.» «Perché il capitano medico sapeva che avevo l'ernia. Ho buttato via quel maledetto cinto perché così peggiorava e non dovevo ritornare in linea.» «Capisco.» «E non può portarmi da qualche altra parte.» «Se fossimo più vicini al fronte potrei portarti al primo posto di soccorso, ma così indietro è necessario che tu abbia la bassa.» «Se ritorno mi faranno l'operazione e poi mi terranno in linea tutto il tempo.» Ci pensai. «Lei non avrebbe voglia di stare in linea tutto il tempo, vero?» domandò. «No.» «Cristo, non è una guerra maledetta.» «Sta a sentire», dissi. «Tu scendi, cadi per la strada e ti fai venire un bernoccolo sulla testa. Io ti raccolgo al ritorno e ti porto all'ospedale. Fermiamoci qui, al lato, Aldo.» Fermammo sul ciglio della strada. Lo aiutai a scendere. «Resterò qui, tenente», disse. «Ciao», dissi. Partimmo e oltrepassammo il reggimento, circa un miglio più in su. Poi attraversammo il fiume cupo per il disgelo che precipitava tra i piloni del ponte per andare sulla strada che attraversava la pianura e consegnare i feriti ai due ospedali. Al ritorno guidai io e andai in fretta con la macchina vuota per trovare l'uomo di Pittsburgh. Prima incontrammo il reggimento, più accaldato e sudato che mai, poi i ritardatari. Poi vedemmo un'ambulanza a traino animale ferma su un lato della strada. Due uomini stavano sollevando l'uomo dell'ernia per caricarlo. Erano tornati indietro a prenderlo. Scossi il capo guardandomi. Era senza elmetto e aveva la testa insanguinata lungo la linea dei capelli. Il naso era scorticato e c'era polvere sul punto insanguinato e polvere sui capelli. «Guardi il bernoccolo, tenente!» gridò. «Niente da fare. Sono tornati a prendermi!» Quando ritornai alla villa, erano le 5 e andai a fare una doccia dove si lavavano le macchine. Poi scrissi il mio rapporto in camera, seduto in calzoni e canottiera davanti alla finestra aperta. Fra 2 giorni sarebbe incominciata l'offensiva e sarei andato con le macchine a Plava. Era da molto che non scrivevo negli Stati Uniti e sapevo che avrei dovuto scrivere, ma avevo lasciato passare tanto tempo che era quasi impossibile scrivere ora. Non c'era niente da scrivere. Mandai un paio di cartoline militari, zona di guerra, cancellando tutto tranne «sto bene». Le avrebbero un po' distratti. Quelle cartoline sarebbero piaciute molto in America, strane, misteriose. Questa era una zona di guerra strana e misteriosa, ma pensavo che fosse abbastanza ben condotta e spaventosa in confronto alle altre guerre contro gli austriaci. L'esercito austriaco era stato creato per regalare vittoria a Napoleone, a qualunque Napoleone. Avrei voluto che avessimo un Napoleone, ma invece avevamo il generale Cadorna, grasso e prosperoso, e Vittorio Emanuele, l'ometto dal lungo collo sottile. Poi sul fianco destro avevamo il duca d'Aosta. Forse era troppo bello per essere un grande generale, ma aveva l'aria di essere un uomo. Molti avrebbero voluto che fosse il re. Aveva l'aria di un re. Era lo zio del re e comandava la terza armata. Noi eravamo nella seconda armata. C'era qualche batteria inglese nella terza armata. Avevo incontrato 2 artiglieri di quel gruppo a Milano. Erano molto simpatici e passammo una serata straordinaria. Erano grossi e timidi e imbarazzati e pieni di concorde ammirazione per qualunque cosa capitasse. Avrei voluto essere con gli inglesi, sarebbe stato molto più semplice. Probabilmente però sarei stato ucciso. Non in questa faccenda dell'ambulanza. Sì, anche nella faccenda dell'ambulanza. I conducenti d'ambulanza inglesi a volte restano uccisi. Bene, sapevo che non sarei stato ucciso. Non in questa guerra, non aveva niente a che fare con me. Non mi pareva che presentasse per me più pericolo della guerra al cinematografo. Però avrei voluto, per Dio, che fosse finita. Forse sarebbe finita nell'estate. Forse gli austriaci avrebbero ceduto, avevano sempre ceduto nelle altre guerre. Che cosa succedeva in questa guerra? Tutti dicevano che i francesi erano finiti. Rinaldi diceva che i francesi si erano ammutinati e le truppe avevano marciato su Parigi. Gli chiesi che cosa era accaduto e disse: «Oh, li hanno fermati!» Volevo andare in Austria senza la guerra, volevo andare nella foresta nera, volevo andare sui monti Harz. Dove erano però i monti Harz? Si combatteva nei Carpazi, ma non volevo andarci. Però doveva essere bello, avrei potuto andare in Spagna se non c'era la guerra. Il sole tramontava e la giornata diventava fresca. Dopo cena sarei andato a trovare Catherine Berkeley. Avrei voluto che fosse qui ora, avrei voluto essere con lei a Milano. Mi sarebbe piaciuto mangiare a Alcova, poi scendere per via Manzoni, nella sera calda, e attraversare e girare lungo il Naviglio e andare in albergo con Catherine Berkeley. Forse sarebbe venuta. Forse avrebbe finto che fossi il suo ragazzo che era stato ucciso e saremmo entrati nella porta principale. Il portiere si sarebbe tolto il berretto e io mi sarei fermato al banco del concierge per prendere la chiave. Lei mi avrebbe aspettato all'ascensore. Poi saremmo entrati in ascensore e sarebbe salito adagio, clicchettando a ogni piano. E poi il nostro piano e il ragazzo avrebbe aperto la porta e si sarebbe fermato lì e lei sarebbe uscita e io sarei uscito e saremmo scesi lungo il corridoio. Io avrei messo la chiave nella porta e l'avrei aperta e sarei entrato. E poi avrei preso il telefono e avrei chiesto di mandarmi una bottiglia di Capri Bianco in un secchiello d'argento pieno di ghiaccio. E si sarebbe sentito il ghiaccio contro il secchiello mentre arrivava nel corridoio. E il cameriere avrebbe bussato e io avrei detto: «Lasciatelo fuori dalla porta, per favore». Perché noi non avremmo avuto niente addosso per via del caldo. E la finestra aperta e le rondini che volavano sui tetti delle case. E dopo, quando fosse buio e si andasse alla finestra, pipistrellini alla caccia sulle case e giù, vicino agli alberi, e avremmo bevuto il Capri e la porta chiusa a chiave e quel caldo e solo un lenzuolo e tutta la notte. E ci saremmo amati tutta la notte, nella calda notte a Milano. sarebbe dovuto essere. Avrei mangiato in fretta e sarei andato a trovare Catherine Berkeley. Chiacchierammo molto a mensa e bevvi del vino, perché quella sera non saremmo stati tutti fratelli se non avessi bevuto un po', e parlai col cappellano dell'arcivescovo Ireland, che pareva fosse un gentiluomo e di cui torti che gli avevano fatto e che avevo spalleggiato come americano e dei quali non avevo mai sentito parlare, finsi di essere al corrente. Sarebbe stato scortese non sapere niente dopo aver ascoltato una così splendida spiegazione delle cause di quelli che, dopo tutto, pare fossero malintesi. Pensavo che aveva un bel nome e veniva dal Minnesota, e questo faceva un bel nome. Ireland del Minnesota, Ireland del Wisconsin, Ireland del Michigan. Quel che lo rendeva carino era che suonava come Ireland. No, che non era questo. C'era qualcosa di più di questo. Sì, padre. È vero, padre. Forse, padre. No, padre. Beh, forse sì, padre. Lei è più al corrente di me, padre. Il cappellano era buono, ma stupido. Gli ufficiali non erano buoni, ma erano stupidi. Il re era buono, ma stupido. Il vino era cattivo, ma non era stupido. Toglieva lo smalto dai denti e lo lasciava sul palato. E il cappellano venne messo dentro, disse Rocca, perché gli trovarono addosso le obbligazioni al 3%. Questo accadde in Francia, naturalmente. Qui non l'avrebbero mai arrestato. Negò di sapere qualcosa delle obbligazioni al 5%. Questo avvenne a Béziers. Io c'ero, e quando lo lessi sul giornale, andai alla prigione e chiesi di vedere il cappellano. Era evidente che aveva rubato le obbligazioni. «Non credo una parola di questa storia», disse Rinaldi. «Come vuoi», Rocca disse, «ma io lo sto dicendo qui per il cappellano. È molto istruttivo. Lui è un prete, lo apprezzerà». Il cappellano sorrise. «Continui», disse, «sto ascoltando». Naturalmente di qualche obbligazione non si poteva rendere conto, ma il prete aveva tutte le obbligazioni al 3% e parecchie obbligazioni locali, non ricordo con precisione quali. Così andai alla prigione, questo è il nocciolo della storia, e mi fermai fuori della cella e gli dissi, come se andassi a confessarmi, «Mi benedica padre per il suo peccato». Ci fu una gran risata generale. «E lui che cosa ha detto?» chiese il cappellano. Rocca non gli fece caso e continuò a spiegarmi la storiella. «Capisci il nocciolo, vero?» Pareva che a capirla bene fosse una storiella molto divertente. Mi versarono altro vino e raccontai la storiella del soldato semplice inglese che fu messo sotto la doccia. Poi il maggiore raccontò la storiella degli 11 cecoslovacchi e del caporale ungherese. Dopo un altro po' di vino raccontai la storiella del fantino che trovò il penny. Il maggiore disse che c'era una storiella italiana quasi uguale di una duchessa che non riusciva a dormire di notte. A questo punto il cappellano se ne andò e io raccontai la storiella del viaggiatore di commercio che arriva alle 5 del mattino a Marsiglia mentre soffia il Mistral. Il maggiore disse che aveva sentito una voce che io bevevo forte. Dissi che non era vero. Disse che era vero e sul cadavere di Bacco dovevamo provare se era vero o no. «Non Bacco», dissi. «Non Bacco». «Sì, Bacco», disse. Dovevo bere tazza per tazza e bicchiere per bicchiere con Bassi Filippo Vincenza. Bassi disse di no, che non era una prova, perché aveva già bevuto il doppio di me. Dissi che era una vile menzogna e Bacco non Bacco, Filippo Vincenza Bassi o Bassi Filippo Vincenza. Non avevo toccato una goccia tutta la sera. E com'era comunque il suo nome? Lui disse, il mio nome era Federico Enrico o Enrico Federico... Dissi, vinca il migliore e Bacco a parte, il maggiore diede il via con boccali di vino rosso. Arrivato a metà non ne volli più, ricordai dove dovevo andare. Vince Bassi, dissi, è più in gamba di me, io devo andare. Deve andare sul serio, disse Rinaldi, a un rendezvous, io so tutto. Devo andare. Un'altra sera, disse Bassi, un'altra sera quando ti sentirai più forte. Mi diede una manata sulla spalla. C'erano candele accese sulla tavola. Tutti gli ufficiali erano di buon umore. Buonanotte, signori, dissi. Rinaldi uscì con me. Ci fermammo fuori dalla porta e mi disse, è meglio che tu non vada lassù, ubriaco. Non sono ubriaco, Rinin, sul serio. È meglio che tu mastichi del caffè, sciocchezze. Te ne vado a prendere un po', pupo. Tu passeggia su e giù. ritornò con una manciata di chicchi di caffè abbrustoliti. Mastica questi, Pupo, e il signore sia con te. Bacco, dissi. Ti accompagno. Sto benissimo. Attraversammo insieme la città e io masticavo il caffè. Al cancello del viale che conduceva alla villa inglese, Rinaldi mi salutò. Buonanotte, dissi. Perché non vieni? Scosse il capo. No, disse. Preferisco i piaceri più semplici. Grazie per i chicchi di caffè. Niente, Pupo, niente. Scesi per il viale. I contorni dei cipressi che vi erano allineati erano precisi e nitidi. Mi voltai e vidi Rinaldi che mi guardava e lo salutai con la mano. Sedetti nella sala d'aspetto della villa in attesa che Catherine Berkeley venisse. Qualcuno scendeva il corridoio. Mi alzai. Ma non era Catherine. Era Miss Ferguson. Hello, disse. Catherine mi ha pregato di dirle che le dispiace ma non può vederla stasera. Sono molto spiacente, spero che non sia malata. No, non sta tanto bene. Vuole dirle quanto mi dispiace? Sì, glielo dirò. Crede che faccia bene a cercare di vederla domani? Sì, credo di sì. La ringrazio molto, dissi. Buonanotte. Uscii e improvvisamente mi sentii solo e abbandonato. Avevo preso molto alla leggera la mia visita a Catherine. Mi ero quasi ubriacato e quasi avevo dimenticato di venire. Ma ora che non potevo vederla mi sentivo solo e abbandonato. Pomeriggio dell'indomani sentimmo che quella notte doveva esserci un attacco a monte del fiume e che dovevamo portarvi 4 macchine. Nessuno ne sapeva niente, ma tutti ne parlavano con grande sicurezza e competenza strategica. Ero sulla prima macchina e quando passammo davanti all'ingresso dell'ospedale britannico dissi allo chauffeur di fermare. Le altre macchine frenarono. Scesi e dissi al primo chauffeur di andare avanti e se non li avessimo raggiunti al bivio della strada per Cormont di aspettarci lì. Mi affrettai per il viale e nella sala d'aspetto chiesi di Miss Barclay. «È in servizio. Non potrei vederla un solo momento». Mandarono un piantone a vedere e lei scese con lui. Mi sono fermato per sentire se sta meglio. Mi hanno detto che era in servizio, così l'ho mandata a chiamare. «Sto abbastanza bene», disse. «Credo che ieri mi abbia buttato giù il caldo. Devo andare. L'accompagnerò un minuto sulla porta». «E stai bene?» chiesi fuori. «Sì, caro. Verrai stasera?» «No. Parto adesso per una parata a Plava». «Una parata? Credo che non sia nulla. E ritornerai?» «Domani». Stava sganciandosi qualcosa dal collo. Me lo mise in mano. «È un Sant'Antonio», disse. «E vieni domani sera». «Non sei cattolica, vero?» «No. Ma dicono che un Sant'Antonio porta bene. Ci starò attento per te. Addio». «No», disse. «Non addio». «Bene, fai il bravo ragazzo e sta attento. No, non baciarmi qui. Non si può». Mi voltai e la vidi in piedi sui gradini. Mi salutò e io baciai la mia mano e l'alzai. Mi salutò di nuovo e poi ero fuori del viale e mi arrampicai sul sedile dell'ambulanza e partimmo. Il Sant'Antonio era in un astuccino di metallo bianco. Apersi l'astuccio e lo feci uscire sulla mano. «Sant'Antonio?» chiese il conduttore. «Sì, ne ho uno». Tolse la mano destra dal volante e slacciò un bottone della giubba e lo tirò fuori dalla camicia. «Vede?» Rimisi il mio Sant'Antonio nell'astuccio. Vi infilai insieme la catenina d'oro e misi ogni cosa nel taschino della giubba. «Non lo porta?» «No. È meglio portarlo. Lo fanno per questo». «Bene», dissi. Aprii il gancio della catenina d'oro e me lo misi intorno al collo e l'agganciai. Il santo mi pendeva fuori dall'uniforme e aprii il collo della giubba, slacciai il collo della camicia e lo feci cadere sotto la camicia. Me lo sentii nella scatoletta di metallo contro il petto mentre andavamo avanti. Poi lo dimenticai. Quando fui ferito non lo trovai più. Forse lo prese qualcuno a un posto di medicazione. Andavamo in fretta quando passammo il ponte e presto vedemmo la polvere delle altre macchine giù in fondo alla strada. La strada svoltava e vedemmo le 3 macchine che parevano piccole piccole con la polvere che si alzava dalle ruote e si alzava tra gli alberi. Le raggiungemmo e le oltrepassammo in una strada che si arrampicava sulla collina. Andando in colonna non è spiacevole essere in testa e mi affondai sul sedile e guardai la campagna. Eravamo ai piedi della collina sulla nostra riva del fiume e mentre la strada saliva, spuntavano a nord le montagne alte con la neve ancora sulle cime. Mi voltai indietro e vidi le tre macchine che si arrampicavano, separate dagli intervalli della loro polvere. Oltrepassammo una lunga colonna di muli carichi e i conducenti camminavano a fianco dei muli e avevano fez rossi. Erano bersaglieri. Passata la collina di muli, la strada era sgombra e ci arrampicammo tra le colline e poi scendemmo sul fianco di una lunga collina in una vallata. C'erano alberi lungo i due lati della strada e attraverso la fila destra degli alberi vedevo il fiume, l'acqua limpida, rapida e poco profonda. Il fiume era basso e c'erano tratti asciutti e sassosi con un rigagnolo d'acqua e a volte l'acqua si allargava splendente nel greto sassoso. Accanto alla riva vidi pozze profonde, l'acqua azzurra come il cielo. Vidi gli archi di ponte di pietra sul fiume dove i sentieri svoltavano dalla strada e oltrepassammo fattorie di pietra coi peri a candelabro contro i muri a mezzogiorno e muretti di pietre nei campi. La strada salì la valle per un lungo tratto e poi piegammo e ricominciammo a inerpicarci sulla collina. La strada si inerpicava ripida avanti e indietro e attraverso boschi di castagni per diventare infine piana lungo un crinale. Riuscii a vedere i boschi laggiù col sole sopra la linea del fiume che separava i due eserciti. Procedemmo sulla rozza strada militare nuova che seguiva l'andamento del crinale e guardai a nord le due file di montagne, verdi e scure fino al limite della neve e poi bianche e belle nel sole. Poi, mentre la strada saliva lungo il crinale, vidi una terza fila di montagne, più alte montagne nevose, bianche come il gesso e piene di soldati con strane pianure. E poi c'erano montagne lontano di là di queste che quasi non si capiva se si vedevano davvero. Quelle erano tutte montagne austriache e noi non avevamo nulla di simile. Davanti la strada faceva una svolta rotonda verso destra e guardando in basso vidi la strada che si tuffava negli alberi. C'erano truppe sulla strada e camion e muli con artiglierie da montagna e mentre scendevamo, tenendoci sul ciglio della strada, vidi laggiù lontano il fiume, la fila di traversine e rotaie che gli correvano accanto, il vecchio ponte su cui la strada ferrata passava sull'altra riva e dall'altra parte, sotto una collina di là del fiume, le case distrutte del villaggio che si doveva conquistare. Era quasi buio quando arrivammo giù ed entrammo nella strada principale che seguiva il fiume.